already know the answer. You are a disgrace. 也门的野中友好协会主席加迈尔。 Now to have psychologists and psychiatrists. 据说加迈尔先生在中国留学多年。 Jefferson Ming e l'arte del sorpasso di Stefano Pistolini. Good morning. Nearly 150 years ago, in one of the darkest years of our nation's history. Buon mattino. Circa 150 anni fa, in uno degli anni più bui della storia della nazione, il presidente Abramo Lincoln sancì che l'ultimo giorno del mese di novembre venisse festeggiato come giorno del ringraziamento. L'America era divisa dalla guerra civile, ma Lincoln disse che i tempi oscuri hanno ancor più bisogno di benedizioni e, lo cito, si deve festeggiare con un solo cuore e una sola voce per l'unità del popolo americano. Questa settimana gli americani si sono riuniti con le loro famiglie e gli amici per rinnovare questa grande tradizione americana. Abbiamo ringraziato per le persone che amiamo e per come possiamo essere orgogliosi del nostro paese e delle nostre comunità. Abbiamo trovato conforto nei ricordi più dolci, al tempo stesso guardando avanti verso la promessa del cambiamento. Ma questo giorno di ringraziamento cade in un momento di grande incertezza per il nostro popolo. In tutto il paese ci sono dei posti vuoti alla tavola, perché tanti coraggiosi americani continuano a servire in armi sulle montagne dell'Afghanistan o nei deserti dell'Iraq. Noi vogliamo onorarli e ringraziarli del loro sacrificio e fare in modo che le loro famiglie sentano il nostro conforto per come sopportano questa mancanza, con orgoglio e decisione. A casa stiamo facendo i conti con una crisi economica di dimensioni epocali. Un numero crescente di americani ha già perduto o teme di perdere il posto di lavoro e non sa più come pagare il suo mutuo. I lavoratori cercano di capire se la paga del prossimo mese sarà sufficiente a pagare i conti in sospeso. I pensionati vedono assottigliarsi i risparmi, gli studenti faticano a pagare i costi dei loro corsi. È indispensabile muoversi subito con rapidità e intensità per far fronte a questa crisi. È proprio su questo principio che io voglio fare in modo che il mio ingresso alla Casa Bianca come nuovo presidente sia un nuovo inizio. Questa settimana ho reso noto i nomi del mio staff economico. Questo gruppo di persone di grande talento e dedizione sta già lavorando duramente per mettere a punto un piano di recupero economico che creerà o salverà 2,5 milioni di posti di lavoro, mentre al tempo stesso verranno prodotti investimenti capaci di stabilizzare e far tornare a crescere la nostra economia. Ma questo ringraziamento ci ricorda anche che il rilancio della nostra economia non verrà soltanto dalle politiche e dalle strategie, ma richiederà il contributo dei sacrifici, della capacità di rinnovarsi, della disciplina del popolo americano. Questa forza io l'ho già vista lungo gli ultimi mesi, nei lavoratori pronti a dare la propria forza alle nuove industrie, negli agricoltori, ma anche negli scienziati che stanno sperimentando nuove fonti energetiche, nei docenti che restano fino a tardi a scuola, nei genitori che spendono un'ora in più a leggere insieme ai propri figli, nei giovani americani che si offrono volontari per le missioni di guerra, per gli anziani che mettono a disposizione il loro tempo libero, nei programmi assistenziali che danno speranza a chi l'ha perduta. La testimonianza di come si è fatto il nostro spirito nazionale arriva dai tanti americani che passano buona parte del loro giorno di ringraziamento dando da mangiare agli affamati, prendendosi cura di chi ne ha bisogno. Mercoledì ho visitato la banca del cibo della parrocchia di San Colombano a Chicago. Lì, come in tante comunità in tutta America, le persone offrivano tempo e risorse per alleviare le sofferenze della gente meno fortunata del proprio quartiere. È questo spirito che ci tiene uniti come americani, come una famiglia americana. La fede che noi cadiamo, ma poi risorgiamo come un unico popolo, che noi non vogliamo che il sogno americano esista solo per noi stessi, ma per tutti. Questo è lo spirito a cui dobbiamo guardare per dare un nuovo inizio alla nostra nazione. I tempi sono difficili. Tante difficoltà ci attendono nei mesi a venire, ma noi dobbiamo saper far ripartire il nostro paese nello stesso modo in cui ci siamo riusciti tante altre volte, da quel primo giorno del ringraziamento voluto dal presidente Abramo Lincoln, unendoci per superare gli ostacoli, prendendo lo slancio e lavorando tutti insieme verso nuovi orizzonti di opportunità per tutti gli americani. Così, in questo weekend, con un solo cuore e una sola voce, gli americani devono ringraziare perché un nuovo giorno, un giorno ancora più luminoso, sta per nascere davanti a noi. Tre minuti e 50 a tradurlo in italiano, avete sentito, ci vuole un po' di più, ma questo è in versione integrale, completa, il discorso con il quale il presidente eletto Barack Obama ieri si è rivolto in questa sua strana natura pubblica e politica di questi giorni di transizione, quando ancora non è l'uomo al posto di comando, ma certamente si accinge ad esserlo, e quindi in un certo senso parla con una ufficialità che però è ancora venata invece di ufficiosità, in un certo senso perfino di confidenza. In questo modo, rinfrescando anche alcuni toni della solennità a cui spesso ci aveva abituato in sede di campagna elettorale, ieri Barack Obama ha parlato agli americani per invitarli a festeggiare il giorno del ringraziamento, e sono parole che al di là della retorica, non so come dire, hanno comunque una potenza, no? di una chiamata, una corresponsabilità, ma anche alla consapevolezza di essere parte di un progetto comune. Sono stati giorni del ringraziamento diversi, quelli dei due presidenti, no? Quello in carica, ancora in carica, George W. Bush, e quello eletto Barack Obama. Bush è stato a Camp David con Laura e le figlie, tra l'altro ben preoccupato per la malattia della mamma, che però da cui arrivano negli ultimi minuti buone notizie, notizie incoraggianti. Bush ha telefonato anche al premier indiano Manmohan Singh per informarsi sugli attentati a Mumbai, esprimendo cordoglio, offrendo aiuti, ha voluto essere tenuto costantemente informato sulla situazione. Sono due gli americani morti, meno di quanto si era scritto inizialmente. Due gli americani sarebbero morti a Mumbai. Il Thanksgiving di Obama è stato invece l'occasione di un mega pranzo a Chicago con Michelle, Sasha e Malia, le figlie, e con 60 invitati, familiari, amici, anche un po' come dire il corpo, no, di quello staff che ha permesso la vittoria straordinaria e che continua a festeggiarla. Un elemento in comune tra i due Thanksgiving naturalmente c'è stato, ed è in comune con qualche altro milione, decina di milioni di Thanksgiving, ed è quel gigantesco, vi garantisco, del tutto inaccettabile per noi tacchino. Non so se l'avete mai visto, non so soprattutto se vi è mai capitato, e su questo vorrei sentirvi esprimere, non su grandi questioni, ma se vi è mai capitato di entrare in un supermercato in un fine novembre americano e lasciar cadere lo sguardo verso quei tacchini da cuocere, di solito avvolti in plastiche colorate, ma in certi casi in plastiche trasparenti, a che c'era questo vitello, un vitello formato tacchino, un mostro, una creazione sicuramente artificiale, insomma, ma a cui gli americani in un certo senso si aggrappano in una giornata così straordinaria. Dicono le agenzie che comunque non hanno fatto in tempo a buttar giù l'ultimo boccone di tacchino o il primo cucchiaino di cheesecake, che poi gli americani si sono rovesciati nei centri commerciali o nei centri città, le poche città che sono così fortunate da avercelo, un centro città, per fare acquisti, perché il Black Friday, che poi sarebbe oggi il venerdì nero cosiddetto per una lunga storia che un giorno vi racconteremo, ma in realtà è il giorno dell'inizio dei saldi natalizi, in cui gli americani comprano anche perché vengono fatte offerte eccezionali, sconti straordinari, e con l'aria che tira in questi giorni potete immaginare, se non c'è voglia di risparmiare un po' i soldi, è stato anticipato a ieri. Tante catene hanno aperto i loro centri, i loro punti vendita ieri, per cui gli americani sono corsi a fare provviste per i regali di Natale e per gli acquisti di queste festività, anche se gli enti preposti fanno sapere che ci sarà una contrazione del 2,2% degli acquisti in questa fase di saldi rispetto all'anno scorso, quando invece c'era stato un incremento del 4%. Tra l'altro, dei grandi nomi, no, dello shopping americano, due per tutti, Circuit City e Mervyn's, stanno chiudendo, sono in bancarotta. Questa sarà l'ultima vendita straordinaria, per cui affari eccezionali si profilano per chi ha dollari da spendere, ma come ha detto Barack Obama, tutto sommato non è un gran momento per lo shopping. What a difference a day made. 24 little hours bought the sun and the flowers where there used to be rain. My yesterday was blue, dear. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine. What a difference a day made. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss. E poi per chi aveva la fortuna di essere a New York, o semplicemente per chi invece aveva acceso la televisione, si è seduto in poltrona, magari perfino con no, qualche ombra di solitudine, che il giorno del ringraziamento è il fantasma più spaventoso. Comunque, a un certo punto gli americani, newyorkesi, a nome di tutta la nazione, hanno messo in scena una delle tradizioni più travolgenti e, se permettete, anche più divertenti, la parata di Macy's. Look what's happening behind Shrek now. Director Scott Ricker's enormous band takes over Herald Square. It's the Marching Royal Dukes from James Madison University, located in Harrisonburg, Virginia. Although being away from family on this holiday. Si chiama parata di Macy's, come i grandi magazzini omonimi, perché la organizzarono la prima volta nel 1924 dei dipendenti che volevano festeggiare il Natale, neanche il ringraziamento, e fecero questa parata che ebbe subito un grande successo. Veniva giù da Harlem e arrivava attorno alla 34esima, appunto, dove ci sono i grandi magazzini. Adesso è diventato diventato, oltre che un formidabile strumento turistico, anche uno spettacolone eccezionale, soprattutto per quei gonfiabili che costellano questo fiume di carri, di bande, marching bands, band delle università, delle scuole, delle accademie, una straordinaria, insomma, una cosa a cui non si può resistere. Se state lì dagli 8 mesi agli 80 anni, passate delle ore straordinarie. Quest'anno c'erano uno Shrek formidabile, noi l'abbiamo visto solo in televisione, tra l'altro volava a pancia in giù, avremmo voluto stargli sotto. Poi c'era SpongeBob, c'era Pokémon, c'era Buzz Lightyear, c'era Orton l'elefante, c'erano numerosi Pokémon, svariati Hello Kitty, alcune centinaia di migliaia di ragazzini urlanti, clown, acrobati, artisti, band musicali, 28 carri allegorici, 3 ore di sfilata, insomma, è stato uno spettacolone e tutte le televisioni fanno vedere dei servizi molto divertenti al riguardo. C'erano anche delle, a un certo punto c'era una specie di gruppo di mazzo di zucche giganti che avanzavano giù per Broadway. Insomma, lo spettacolo era straordinario. Molti cantanti anche hanno cantato a bordo dei carri. C'era Miley Cyrus, che se avete intorno a 13 anni sapete chi è, se no no, rassegnatevi. Ma per i più grandicelli, quelli più seri come noi, c'era James Taylor. Che abbiamo altro? Sentiamo. Our regular programming will not be seen this morning, so the National Broadcasting Company can kick off the holiday season live from New York City with our telecast of the 80th annual. Il kick off della holiday season, come dice il nostro bravo telecronista, è il calcio d'inizio della stagione delle feste, una stagione delle feste quanto mai particolare in America, no? Lo ha detto anche Barack Obama poco fa, non a caso a poca distanza da Macy's, dove c'è la Penn Station, la principale stazione per almeno per il traffico interno, per il traffico locale, quello dei pendolari di New York. L'aria che tirava era completamente diversa, sentite. And good evening, I'm Chris Raggi. And I'm Christine Johnson. Tonight a new terror threat against New York with far-reaching consequences. Officials are warning about an al-Qaeda plot to blow up trains with suicide. È un al-Qaeda plot, si è insistito con questo pericolo proveniente da al-Qaeda, e a questo punto si è anche localizzato, sono usciti da fonte FBI maggiori particolari su questo attentato, che per fortuna non ha avuto luogo, ma che sembrava essere stato progettato proprio per il giorno del ringraziamento. Pensate che cos'è una stazione metropolitana vicino Macy's nel giorno del ringraziamento. Pare anche che appunto la Penn Station sia stata individuata come luogo dell'attentato. Si trattava probabilmente di kamikaze. Si dice che l'intenzione era bloccare o far esplodere un treno delle ferrovie Amtrak, quelli che vanno verso New Jersey, Boston e Washington, no? C'è la famosa navetta New York Washington, presa da tutti i politici potenti americani, e la Long Island Railroad, invece ferrovia che porta a casa i pendolari verso la popolosissima penisola di Long Island. C'erano centinaia di agenti armati fino ai denti dentro la stazione, ma i newyorkesi, che in questo sono un po' come gli romani, no? Quando li hanno visti si sono anche un po' straniti a dire: ma che è tutte queste cose, tutti questi mitragliatori, ma che fate, ci date fastidio, ci intralciate, vogliamo correre a vedere la parata. Perché poi questo, contraddittorio e splendido, è lo spirito americano. Yeah. È uscito il nome dell'uomo che è rimasto ucciso a Mumbai, in un caffè di Mumbai. L'americano si chiama Alan Sher e insieme a lui è rimasta uccisa sua figlia, una ragazzina di 13 anni che risponde al nome di Naomi. E poi c'è molta, sulle televisioni americane c'è molta attenzione a una mancanza, a un silenzio, quello di Joe Biden. Si stanno cominciando ad allarmare. Tra l'altro Joe Biden, il neo vicepresidente degli Stati Uniti d'America, è noto per essere un chiacchierone, un interventista, uno che chiacchiera, è letteralmente scomparso, come ha scritto su un sito politico oggi un editorialista. Se ne parla del vicepresidente e delle cose che in realtà non dice, se ne parla assai meno di quanto si parli del cane che non c'è e che la famiglia Obama a tutti i costi ormai è costretta a portare alla Casa Bianca. Quello è un argomento di discreto richiamo di Joe Biden. Su Joe Biden, silenzio. Avete raccolto il nostro appello di descrivere, di fare quello che non eravamo in grado di fare, cioè descrivere il tacchino del ringraziamento. Leggo un paio di sms, per esempio quello di Stefano da Udine, che dice: sono stato da poco in una base americana a Ramstein, nel supermercato interno vendevano questi tacchini che sembravano più struzzi che tacchini e sono così grandi che devono noleggiare dei forni apposta per cuocerli. Ecco, la descrizione mi sembra calzante. Oppure Andrea da Bologna, che dice: il tacchino, a me basta la descrizione che ne fa Charles Bukowski nel romanzo Donne, non si sa quante femmine ci abbia nutrito. Beh, un po' maschilista così. Bene, ma abbiamo un ospite e un amico in diretta, tra l'altro sotto, credo, la neve o qualcosa che gli somiglia di Milano, non che a Roma si stia meglio, ma chiamiamo in causa Saro Capozzoli, che si occupa di solito di raccontarci la Cina, da Shanghai, la Cina che conosce per decenni di permanenza, di soggiorno e di lavoro in Cina, non solo a Shanghai, ma adesso invece Saro è a Milano e ci racconterà lui perché. Ciao Saro. Ciao a tutti. È vero che c'è un tempo da lupi da quelle parti o no? Confermi? Ma sì, si sta nevicando. Io abito un po' fuori Milano, qua ci sono già probabilmente 20-30 centimetri di neve. Ecco. Quindi abbiamo detto tutto. Allora, che cosa sei venuto a fare a Milano? Che cosa è successo? Ma ieri sono presente a questa premiazione, il China Award 2008, organizzata e promossa dalla Fondazione Italia-Cina, e da Milano Finanza. Ecco, era un'occasione mondana, interessante, anche perché poi in corrispondenza anche di una charity dinner, una cena beneficenza, perché certo. In quell'occasione sono stati raccolti anche dei fondi per una iniziativa molto interessante, molto importante, il Lifeline Express, cioè un treno che gira per la Cina nelle campagne cinesi e che con un ospedale viaggiante che porta un po' di sollievo in giro per le campagne cinesi. Infatti è un ospedale che è dedicato alla cura della cataratta per i bambini, gli anziani, eccetera, per tutte quelle persone che non hanno la possibilità in Cina di recarsi in un ospedale in una grande città per farsi curare. Ecco. Sì, anche un'occasione, Saro, per ricordare magari a chi ha una frequentazione così più saltuaria con la Cina, che la Cina non è solo i grattacieli di Shanghai, vero? Certo, ci sono anche queste iniziative, ne ho viste diverse. Tempo fa mi ricordo di una, addirittura dei camion con dentro dei laboratori proprio medici che andavano in giro, questa qui è un'iniziativa australiana, andavano in giro per la Cina a curare il labbro leporino, certo, no, dei bambini, perché lì c'è un problema che appena un bambino nasce con una malformazione, praticamente nel campagna dove c'è molta arretratezza culturale eccetera, anche perché c'è il discorso di avere un solo bambino, e quando arriva un bambino con una malformazione come questa, che è una cosa che si può curare veramente molto semplicemente, i bambini vengono semplicemente rigettati dalle famiglie, certo, no? E quindi è un qualcosa che, diciamo, è stata una cosa, è stata interessante, c'era un po' presente un po' il vuoto della finanza e dell'imprenditoria. Ecco, la parte business del premio, in che cosa consiste? Che cosa viene riconosciuto e premiato? Ma sono state fatte diverse premiazioni, per diverse categorie, no? Per chi nei rapporti fra Italia e Cina ha portato valore, uh-huh, chi ha portato innovazione, chi ha, c'era anche il Lombard Elite, questo premio che ha premiato appunto degli imprenditori, delle società che hanno portato hanno fatto qualcosa di particolare in Cina. Ecco, anche la nostra società, la mia azienda, la Gesa, è stata premiata per essere la migliore società di consulenza strategica in Cina per le aziende italiane. E diciamo, dopo 10 anni di attività, così c'è stato questo riconoscimento, e il premio l'ho ricevuto dalle mani dell'ambasciatore Su Yuxi, uh-huh, che è venuto appositamente a Milano per dare questi premi. Ecco, ma tu che conosci bene la Cina, i cinesi e questo mondo di connessione anche nel settore degli affari, dell'imprenditoria, che aria hai sentito tirare? Insomma, c'era un ottimismo, c'era qualcosa che sta progredendo e sta andando verso risultanze migliori, o magari un po' di perplessità? Ma la cosa interessante, c'era un'area di ottimismo e di speranza, ecco, perché questo è un po' alla fine il riassunto di tutta la sera, perché appunto sono stati anche premiati comunque anche degli imprenditori cinesi che hanno fatto investimenti in Italia, certo, questo è qualcosa di un po' atipico da ricordare, però ci sono imprenditori cinesi che hanno fatto iniziative, hanno comprato aziende, hanno portato ricchezza, hanno salvato delle situazioni, hanno anche fatto impresa assumendo personale italiano e crescendo, ecco. Quindi è stata una in quali settori avviene questo in particolare? Diciamo? Ma in tanti settori, nel tessile, ma anche nel meccanico, meccanotessile, e diciamo, questo sono state comprate anche delle aziende italiane che erano anche in crisi, no? Come certo, nel settore delle motociclette e così via, no? Quindi ecco, certo, c'erano alcuni imprenditori che sono stati premiati, e c'era appunto una iniziativa cui è presente il presidente dell'Associazione Italia-Cina, Cesare Romiti, e è stato proprio ad altissimo livello. E la cosa interessante, vorrei proprio ricordare, è stato il discorso dell'ambasciatore cinese, che è stato un discorso molto pragmatico, uh-huh, dove appunto lui citato un po', ha fatto riferimento a questo momento di crisi, ha fatto riferimento appunto come il momento che stiamo affrontando sarà un inverno un po' lungo, dovremo attrezzarci appunto per passarci attraverso, ecco, quindi e la Cina è pronta a dare a dare tutti gli elementi per poter supportare l'economia non solo cinese ma anche quella occidentale con iniziative dedicate, ecco, quindi lui ha dato proprio un messaggio di tranquillità, di serenità, ma anche di è stato anche, diciamo, alla fine anche premiata l'Associazione Italia-Cina anche per questa azione di capacità di connessione, certo, sì, di questa intermediazione, che è molto importante, certo, far da ponte fra, certo, due culture così diverse, e diciamo è stata una storia andata avanti per diverse ore. Erano presenti poi anche dei medagliati d'oro delle Olimpiadi, certo, e 5 medaglie d'oro sono stati premiati appunto per loro come un simbolo, ecco, di quello che è stato fatto alle Olimpiadi, e tutti quanti hanno appunto espresso meraviglia e soddisfazione per quello che è successo appunto, certo, durante l'Olimpiade, l'organizzazione perfetta, e è un momento molto importante per lo sport. Va bene, grazie a Saro Capozzoli e congratulazioni anche a nome di Jefferson Ming di Radio 24 per questo meritato riconoscimento. Buon ritorno a Shanghai, la prossima volta che parleremo di nuovo, ricominceremo le nostre cronache, le cronache dalla Cina. We'll be right back. Prima pagina. C'è Andrea da Bologna che precisa: la Benelli, la gloriosa Benelli Moto, è stata acquistata dai cinesi, in riferimento a quanto diceva prima Saro. Poi c'è Simo, cinicamente dice: ragazzi, meno Biden parla e meglio è per i democratici. Ma insomma, è il vicepresidente, vogliamo di tanto in tanto dargli la parola, un augurio per il ringraziamento, no? Glieli facciamo noi gli auguri, eh? Auguri a Biden, auguri. Basta che non parli, quindi siamo a posto. Vai. Allora, veniamo alle notizie dalla Cina, perché ce n'è una che qui da noi, come spesso capita quando si parla di Pechino, passa un po' sotto traccia. Mentre, per esempio, io questa mattina ho chiamato uno dei nostri amici di Jefferson Ming, Luigino Guarda, che ha un occhio lungo sulla Cina ormai da 30 anni, che mi ha detto: guarda che qui a Pechino c'è un gran casino, mi ha detto proprio queste parole, riferito al fatto che il governo ha deciso di annullare il vertice tra Cina e Unione Europea che era previsto lunedì a Lione. Tutto questo perché spunta sempre fuori questo nervo scoperto del Tibet. Infatti Sarkozy ha annunciato in pompa magna che incontrerà in Polonia il Dalai Lama il 6 dicembre, questo ha irritato come al solito i cinesi, che quindi per ripicca hanno detto no a questo vertice, ed è una notizia che in Cina sta su tutte le prime pagine dei giornali con la solita enfasi quando si parla di anche Tibet. La Gran Bassi incontra il Dalai Lama, e quindi tutti tranne i cinesi praticamente, certo, parlano con il Dalai Lama. E su questo oggi ha risposto per le rime il ministro degli esteri francese Bernard Kouchner, che ha detto: ci rammarichiamo della decisione, non la comprendiamo, non è possibile lasciarsi dettare l'agenda naturalmente dagli amici cinesi. E anche Sarkozy, interpellato sulla possibilità eventualmente di modificare i suoi programmi per paura di queste ritorsioni cinesi che stanno preparando i soliti boicottaggi quando spunta fuori il pericolo Tibet, ha detto: non può essere modificato nulla, io incontrerò tranquillamente il Dalai Lama, quindi appuntamento al 6 dicembre in Polonia, quando ci sarà la commemorazione del 25esimo anniversario del Nobel conferito a Lech Walesa. Quindi torniamo indietro. La sensazione è che così non andiamo da nessuna parte, se sembrano i due sordi che urlano. Però come al solito la reazione cinese mi pare sproporzionata, certo, poi al problema, insomma, ammesso che poi il Tibet sia un problema, però insomma evidentemente è un nervo scoperto che Pechino non riesce a placare. Dicevo, buone notizie sulla salute, erano state molto allarmistiche le prime uscite di Barbara Bush, la ex first lady, ricoverata d'urgenza a Houston, nel Texas, dove vive, in ospedale. In realtà era stata vittima di una ulcera perforata che è stata operata e sistemata con grande efficienza dai medici del locale ospedale metodista. La signora, 82 anni, 83 anni, sta bene, già ha ricevuto i suoi parenti. Mi è sempre sembrata, insomma, una discorsa dura la Barbara Bush. Ah, voglia, ci vuole altro che un'ulceretta. E minacce tornare a casa molto prima delle vacanze di Natale. Allora, torniamo in Cina per una notizia che filtra dal Beijing Times, che cita fonti anonime, però insomma noi la riportiamo perché riguarda la Fiat, che avrebbe sottoposto alla commissione governativa cinese, la National Development and Reform Commission, tre progetti di possibili joint venture con dei partner automobilistici locali, che sono naturalmente di dimensioni vastissime visto che si tratta della Cina. I nomi che circolano sono quelli della Chery Automobile, con la quale tra l'altro la Fiat ha già siglato lo scorso anno una joint venture, certo, per produrre distribuire alcuni brand Fiat, Alfa Romeo e Chery. E poi ci sarebbero anche la Chongqing Changan Suzuki Automobile, mi scuso per la pronuncia, che è a sua volta una fusione tra la cinese che evito di ripronunciare, sì, e la Suzuki che è più semplice, ecco. E poi l'ultima è un produttore locale che si chiama Guangzhou Automobile, quindi vedremo poi se la Fiat amplierà il suo spettro d'azione in Cina nei prossimi mesi e nel prossimo anno. Ultima notizia, notizia triste per la scomparsa di, non so se vi ricordate, The Producers, no? Il film Per favore non toccare le vecchiette, era chiamato in Italia, con di Mel Brooks, e poi il primo di Mel Brooks, e poi sì, rifatto anche recentemente in una nuova versione altrettanto divertente. Beh, si ispirava a un personaggio che si chiama Gerald Schoenfeld, l'impresario di Broadway più conosciuto, e 84 anni, scomparso ieri, il vero re del Theater District, del distretto dei teatri musicali di Broadway, responsabile di produzioni come Chorus Line e Cats, un altro settore, tra l'altro quello del Broadway, dell'intrattenimento serale newyorkese, che non versa in una buona situazione, in buone acque in questi giorni. Non a caso si punta proprio sul periodo natalizio per tentare un riscatto. So che hai una notizia qua sulla nostra sigla. Ci sono delle mail sigletta. Legate alla nostra sigla. Per esempio c'è Angelo che dice: ho quattro apparecchi sintonizzati su di voi per sapere finalmente qual è quella canzone che fa Barbara Bambola. E questa, la nostra Vivian Su, che canta una canzone che tradotta in inglese si chiama The Mask. E poi su questo Sabino ci ha scritto una bella mail in cui dice: ho sentito insomma che molti vogliono sapere il significato della canzone, e ci ha regalato una mail lunghissima con ideogrammi, trascrizione in cinese in caratteri diciamo occidentali e una bella traduzione una mail con ideogrammi in inglese. Insomma, ci conferma, come già ci disse il nostro amico Stefano dalla Cina, che il tema è pirandelliano, della maschera come doppiezza, insomma, come ma lasciamoli così, no? Però, insomma, ascoltatori, poi, sull'incertezza magari per del mail tema potremmo rispondere più diffusamente sul tema. E non dice Barbara come pensate voi, no, ma ben ma cose profondissime pirandelliane di cui vi parleremo nei prossimi giorni, sempre qui a Jefferson Ming, quando torneremo Stefano Bistolini, Emiliano Enrico, parte tecnica Alessandro Chiappini e Filippo Aureggi, una mail jeffersonming@radio24.it, una replica stasera alle 9, altrimenti appuntamento lunedì attorno alle 4 qui da Radio 24. Yeah.